24 mattino. La Camera è mia il Senato. C'ho banche, banchieri, c'ho case editrici, c'ho confalonieri, la RAI, Mediaset, gli attori e le attrici. È mio il giornale, è il Viminale, e è naturale, fra tre anni il Quirinale. Finalmente sarà mie, no, è un fatto personale. Magistratura e corte costituzionale. Roberto Benigni è un Roberto Benigni d'epoca, vintage, però tutto torna attuale in Italia e il passato che divora sempre il presente. Vi do questa chiave di lettura mentre vi leggo il titolo di Libero su Berlusconi: lo processeranno anche da morto. È accanimento giudiziario contro Silvio, come dice il quotidiano diretto da Pietro Senaldi? Non lo so, però oggi tutti i commentatori, indifferentemente da destra a sinistra, considerano anacronistica questa inchiesta, e devo dirlo pure io. Non si può, a tre giorni dal voto, aprire un'inchiesta sui fatti, sulle stragi del 1993, su un processo che è stato due volte chiuso con sentenze. Ma è la strage di New York il grande dilemma sulla pagina del Corriere della Sera. Iniziamo da qua: strage a New York, torna il terrorismo, furgone piomba su una pista ciclabile nel giorno di Halloween, almeno 8 morti, l'autista ha urlato Allah Akbar. E ricordate le parole? Le parole del sindaco De Blasio sono quelle che hanno confermato: si tratta di un attentato terroristico. E allora iniziamo con la carrellata dei titoli, perché sempre partiamo da qua. Allora, abbiamo detto del Corriere il titolo, ma il fondo, la stagione delle ombre di Massimo Gaggi, sulla leggeremo degli approfondimenti sul modo in cui l'America precipita in un nuovo incubo a pochi passi simbolicamente da Ground Zero. Il Foglio: attacco con furgone a Manhattan per la polizia è un atto intenzionale. E poi il fondo di Cerasa, direttore del quotidiano: il giornalista neutrale non è una notizia, un premio Pulitzer del New York Times smonta le fake tesi sul giornalismo obiettivo, che secondo il direttore del Foglio non esiste. Il Tempo: ostia al voto, la prova dei 9. Sì, sono 9 candidati, ce lo ricorda il giornale diretto da Gianmarco Chiocci, e ostia sarà importante simbolicamente, come le elezioni del Molise, come le elezioni della Sicilia, perché sono i 3 squilli di tromba che preparano la grande sfida delle elezioni politiche. Ma il fondo di Chiocci è: i PM girano un altro film sul Padrino di Arcore e siamo alle comiche. Allora, vi dicevo di Libero, vi ho già letto il titolo di apertura, ci sono 2 pareri, un atto voluto e non dovuto, che fine hanno nulla, Filippo Facci. E poi c'è una spalla di Vittorio Feltri, l'insostenibile pesantezza della nostra vita, il romanziere pazzo, e un fondo dedicato a Massimiliano Parente. Ah, la Gazzetta dello Sport, rientriamo con una bella copertina a due lati, diciamo a due tagli, dolcetto o scherzetto. Il dolcetto è la tripletta della Roma e lo scherzetto è Juve. Ringrazia il Pipita. Siamo onomatopeici oggi, Corriere dello Sport, una di quelle giornate in cui il quotidiano di Piazza Indipendenza, qua posso guardarli attraversando la strada, 3-0, magica. Però questa volta si può proprio dire magica con due G. Avvenire e pioggia di bonus, molto interessante, quotidiano dei Vescovi oggi, ma non per i bebè, via dalla manovra e al fondo famiglia 100 milioni. Il Fatto: i cattolici del PD in rivolta, AP in rivolta, i nostri voti adesso sono in bilico, ma il premier Gentiloni è sicuro, in aula i numeri ci saranno. Sforbiciate Harakiri e il fondo di Massimo Calvi, Democrazia, Demografia e Scelte senza lucidità. Repubblica, il terrore sotto le torri. Federico Rampini, il fantasma dell'11 settembre. Viene voglia iniziare già a leggere l'attacco nel luogo tornato alla vita. Vero? Il giornale riapre la caccia a Berlusconi, le toghe ci riprovano, si vota, il cavaliere finisce indagato per le stragi di mafia del 93, siamo al ridicolo. Dietro il teorema, ecco un'informazione in più, c'è Di Matteo, PM pronto a farsi ministro grillino. Alessandro Sallusti, La Stampa, furgone contro i ciclisti e terrore a Manhattan, e il fondo dove nascono le insidie al risparmio di Lepri e sull'economia. Il Fatto, apertura diversa, il silenzio degli indecenti, e ci sono due foto, da un lato Berlusconi e Dell'Utri. Ecco, Il Fatto è l'unico giornale che in qualche modo dà credito a questa inchiesta, e la seconda foto è quella di Milena Gabanelli che si infila gli occhiali, missione compiuta, la Rai del Nazareno fa fuori la Gabanelli. Censura di regime, sordina di tutti i TG sull'indagine, un'altra voce scomoda e purata. Un CLN contro B, che sarebbe Berlusconi, e il fondo di Travaglio. La Verità, un'apertura diversa, la prova che Banca Italia ha nascosto, assunto da Zonin l'ispettore che doveva indagare su crack. Sì, perché da due giorni si lotta furibondamente fra la commissione d'inchiesta, Casini, Orfini da una parte e Banca Italia sul fatto che alcuni dirigenti di Banca Italia sarebbero stati assunti nelle banche su cui avrebbero dovuto vigilare. Ecco, questa novità poi la leggiamo. Sì, Visco ha sbagliato, l'ex premier ancora di più, Maurizio Belpietro mena tutte e due. E alè! Il Messaggero, torna il terrore, strage a Manhattan, un uomo col furgone piomba sulla folla, ovviamente la Jihad sbarca, Andrea Margelletti il fondo, con il format alla europea. E il Sole 24 Ore, dulcis in fundo, la crisi cambia il risparmio, famiglie in fuga dal rischio. Questo è molto interessante, cioè dove vanno i soldi, e vigilanza adeguata al mercato, regole da descrivere, il fondo di Marco Nado, e poi agevolazione per la casa, cresce il numero degli sconti. Poi vi spiegherò una gabola pazzesca di questa vicenda, nel senso che hanno prolungato, ma dimmi tu, la cedolare secca, quella che consente di scaricare gli affitti al 10%, no? E di pagare il 10% ovviamente sugli affitti come tasse, l'hanno prorogato questa possibilità, è tutto in proroga come dice Oscar Giannino, di un anno, ma il contratto si può stipulare per 4 anni, e quindi che affitto ci metti se la tassa che devi corrispondere, che ti impegni a versare, la firmi per un anno e poi il contratto dura per 4 anni, e siamo veramente nei paradossi. E intanto da Finanza e Mercati, perché leggo anche questa apertura, Farinetti ha deciso, Italy si quota a Piazza Affari fra 12-18 mesi. Allora, da dove cominciamo? Entriamo subito, rapidamente, dentro i temi della strage, perché ne state sentendo da ieri sicuramente, però qualcosa in più c'è da dire. E allora Federico Rampini su Repubblica: è la strage di Halloween all'urlo di Allah Akbar, il terrore colpisce di nuovo la città martire dell'11 settembre, sono le 15:05 ora locale, 8 morti in pochi istanti secondo una tecnica tragicamente collaudata a Nizza e a Londra. Sì, è il format del terrore. E che cosa dice a pagina 2 e 3 in una grandissima, lunga articolessa Rampini? Ecco qua. Almeno 15 feriti e subito le testimonianze concordi. L'autore dell'attacco, quando sceso al furgone, urla "Dio grande" in arabo. L'FBI ha subito classificato la strage come terrorismo. L'autore viene identificato da media americani come Saifullo Saipov, di nazionalità uzbeka. Vive a Tampa in Florida e sarebbe arrivato negli Stati Uniti nel 2010. Nel pomeriggio di vigilia della festa di Halloween, quando c'è già Manhattan affollata di ragazzi in maschera per la festa, cala di colpo la paura su New York. Belle queste pennellate. Alla prima conferenza stampa, 2 ore e mezza dopo l'attentato, Bill de Blasio, governatore, sindaco della città, e il governatore Andrew Cuomo evocano subito l'11 settembre 2001, la madre di tutte le stragi firmate dal terrorismo islamico. Il messaggio è forte e chiaro: New York non si arrende, ci siamo risollevati già 16 anni fa da un attacco molto più grave, lo faremo anche questa volta. E allora, ovviamente, è un racconto del terrore e voglio aggiungere, solo in fase, diciamo, di commento e di editoriali, quello che dice il Corriere della Sera, la stagione delle ombre, Massimo Gaggi. L'America è precipitata di nuovo nell'incubo del terrorismo. Ciclisti falciati da un furgone guidato da un jihadista, 8 morti, molti feriti, in una giornata di sole sul lungo fiume di Manhattan, alla vigilia della maratona in New York nella serata festosa di Halloween. Proprio mentre i primi arresti del procuratore che indaga sul Russiagate rendono ancora più caotico il quadro politico, si materializza lo scenario più temuto: il paese che scivola verso climi da crisi istituzionale, mentre aumentano le minacce interne ed esterne: terrorismo, Russia, missili nucleari nordcoreani, proactive cooperator, più ancora dell'arresto dell'ex capo della campagna di Trump, Paul Manafort. Sono queste parole riferite a un collaboratore attivo che Giorgio Papadopoulos sta fornendo agli inquirenti, a far venire i brividi al presidente e ai suoi collaboratori. Torna l'ipotesi dell'impeachment? È questo lo scenario. Sono tutte queste cose insieme e questo cortocircuito di cui parla Gaggi sul Corriere a pagina 1 che rendono questa strage particolarmente pericolosa in un momento delicatissimo. E aggiungiamo cosa dice La Stampa. La Stampa, quotidiano, come sappiamo, da sempre molto attento agli esteri, se ne occupa alle pagine 2 e 3, e Carlo Mastelloni disegna il volto del nuovo califfato. Sì, perché l'idea, il rischio, è che sia un effetto della disfatta di Raqqa. L'analisi, la disfatta del califfato e il terrorismo dei rimasti. Con la battaglia di Raqqa, spiega Mastelloni sulla Stampa, terminata dopo mesi, una 15 giorni fa, le forze arabe curde con l'appoggio americano hanno sconfitto i combattenti del califfato, gli ultimi. Si è così riaperto in Occidente il dibattito sul pericolo dei foreign fighter. Torneranno in Europa? Faranno attentati o rappresaglie? Anche in Italia questa prospettiva, scrive Mastelloni, La Stampa, pagina 2, desta preoccupazione perché il nostro paese conta un numero esiguo di militanti jihadisti arruolati nell'esercito delle bandiere nere, però ci sono. È utile fare qualche riflessione, soprattutto alla luce di quanto è avvenuto ieri a New York. E in primo luogo, spiega Mastelloni, l'eventuale ritorno dei foreign fighter va visto nel drammatico contesto di una disfatta. A Raqqa, come già a Mosul, i combattenti stranieri sono stati per mesi e mesi sotto le bombe americane mentre dovevano contenere l'avanzata delle milizie scelte di curdi e di siriani. Il numero dei sopravvissuti e di coloro che sono riusciti a fuggire non dovrebbe essere elevato, però sono molto pericolosi. Ecco il senso di questa riflessione. Il clima, il modo in cui colpisce, gli elementi che amplificano l'attentato terroristico e soprattutto la minaccia di questi pazzi che sono in giro per il mondo con un addestramento adatto ovviamente alla guerra. Allora mi fermo per il meteo e poi torniamo con le altre notizie. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mattino. Un'altra buona notizia ce la dà l'Istat: aumenta la speranza di vita, ma diminuisce la speranza di sopravvivere. Ecco, no, scusa. Ebbene, ritorniamo qui, 7:31 minuti, 12 secondi, i vostri messaggi. Uno, lo devo leggere. Signor Telese, ho sentito la registrazione del commento della partita della Roma. Lei si è domandato cosa avessero in testa quegli ultra della Roma che hanno massacrato il povero straniero ieri? Forse quegli urli, quell'indotta eccitazione, quell'enfasi forzata. Oh, ma dico, non scherziamo. una cosa è il racconto anche appassionato dello sport, qui fra l'altro era la voce del nostro mitico Pardo, e un'altra cosa è la violenza becera di questi assassini picchiatori da quattro soldi. Allora, siccome io qui do sempre priorità alle notizie importanti, quelle di servizio, considero questa rassegna stampa anche uno spazio di servizio, sappiate che cambia il digitale ancora una volta, ma come l'avevamo appena fatto, ricambia da sostituire il 90% delle televisioni. Entro 5 anni apparecchi tutti da cambiare. A soli 10 anni, racconta Roberto Amoruso sul Messaggero, ma anche sugli altri giornali, il Messaggero ha dato più spazio. A soli 10 anni dallo switch off dell'analogico si cambia ancora. Dal 2022 arriverà il digitale terrestre di seconda generazione, un nuovo passaggio imposto dall'Unione Europea e appena recepito in Italia nella legge di bilancio, costringerà gli italiani alla sostituzione di oltre il 90% dell'attuale parco televisori. Nel 2018 partiranno le aste dell'Unione Europea per assegnare le frequenze per il 5G, la connessione super veloce. Nella manovra modifiche in vista per pensioni e ticket. Allora, come dice il Messaggero, è partito l'assalto alla dirigenza? Non lo so, ma intanto questa è la prima modifica importante. Ci sarà un decoder nuovo da mettere, quindi non bisogna necessariamente buttare tutto il televisore, si può attrezzarsi con un nuovo decoder da poco più di 30 euro, con dei tanti contributi previsti nella manovra, sono 100 milioni che sono stati stanziati per questo motivo. Però chi lo vuole integrato dovrà cambiare il televisore. La buona notizia per gli affezionati alla TV è che il digitale del futuro, e ci mancherebbe almeno quello, promette un salto tecnologico non indifferente. A sentire gli addetti ai lavori, a partire dalla visione regolare di programmi in HD e Ultra HD, per passare ai servizi come il fermo immagine e il restart. Insomma, questo è ciò che accade con i nostri televisori. Soldi da spendere, incentivi piccolini da raccogliere e nuove opportunità di visione. Ale. Allora, oggi dobbiamo sicuramente entrare in questa vicenda che è fondamentale, che riguarda Berlusconi. Allora, il giornale si riapre la caccia a Berlusconi, sentiamo cosa dice Sallusti. Ovviamente è un'interpretazione tutta filo cavaliere, però la lettura è questa. La tregua è finita, si riapre la caccia a Berlusconi come ai vecchi tempi, mettiamola così, in modo irrispettoso per la preda. È un buon segno, significa che l'uomo è ancora politicamente temuto, ritenuto in grado di tornare al comando per via elettorale dopo essere stato deposto per via giudiziaria. Così, a 3 giorni dalle elezioni siciliane, a poche settimane dal verdetto della Corte Europea sulla sua possibile riabilitazione e al via della campagna elettorale per le politiche, riparte il ben noto circo degli ammazza Silvio. Allora, è davvero così? Bisogna, questo è il bello, sentire il fatto, l'altra campana. E perché così, la cosa che è bella dei giornali, abbiamo due punti di vista. Marco Travaglio: ah ragazzi, scusate, dimenticavamo una cosetta, ci sarebbero poi Berlusconi e Dell'Utri indagati come mandanti delle stragi mafiose del 93, ma non vi preoccupate, non è niente. Parliamo invece delle cose serie. Il braccio destro della sindaca Appendino, che fa levare una multa da 95 euro a un amico, parliamo dei deliri twittati contro l'usato dall'aspirante assessore ai rifiuti dei 5 Stelle in Sicilia. E il sottotesto che dovrebbero pubblicare i TG di Rai e di Mediaset, dice Travaglio, pagina 1, Il Fatto Quotidiano, e i siti dei giornaloni che ieri hanno minimizzato o addirittura ignorato, il magnifico TG3, la riapertura delle indagini sul leader e sull'ideatore di Forza Italia per la mattanza che insanguinò l'Italia a Firenze, Roma e Milano, uccidendo 10 innocenti e ferendo altre decine, abbattendo basiliche e musei e aprendo la strada al primo governo di Berlusconi. Ma se restano al loro posto, vengono investiti questi due della questione morale che li costringe a rispondere, a spiegare, a rendere conto, braccati come sono dalla stampa, e spesso sono proprio le loro bugie a segnare la loro fine, non per quello che hanno fatto, ma per quello che hanno detto. E allora, il problema di questa vicenda però, ma davvero possiamo pensare, lo dico Marco, che siano state le stragi a far vincere Berlusconi. In qualche modo qui Travaglio lo dice, no? Aprirono abbattendo basiliche e musei e aprendo la strada ai primi governi di Berlusconi. Io di questo ovviamente non sono convinto, però vi restituisco questa opinione perché è un'opinione importante, quello che spiega che cosa è successo. Allora, dentro il fatto ci sono dei pezzi che spiegano ovviamente i capi d'accusa, il tramite fra Graviano e Berlusconi, una pista porta a Milano 3, pezzo di Marco Lillo, e poi quei contatti fra Forza Italia e boss e la condanna di Marcello, una rivocazione ovviamente di quello che è già accaduto nella storia giudiziaria di questi anni. In Sicilia e in Toscana i magistrati archiviarono i fondatori di Forza Italia sottolineando i rapporti e i passaggi di denaro verso Cosa Nostra. E poi torna a parlare Ingroia, oggi fa l'avvocato, era PM. Berlusconi è tornato in politica, è un atto doveroso indagare. Beh, ma se serviva una cosa che confermasse i sospetti di Sallusti, questa frase è come se la relazione fra fare politica e le indagini fosse netta e non l'obbligatorietà dell'azione penale. E allora abbiamo un altro break e poi andiamo sulle notizie importanti che riguardano anche l'economia. Ah no, non c'è, no, siamo più lunghi oggi perché oggi è giorno di festa, signori. Allora, hai un frammento da far sentire? Perché voglio fare un piccolo voltapagina. Scusami il ritardo, ma ho speso questo tempo per farti un favore. Ti ho fatto togliere una multa che hai preso l'altro giorno. Ho chiamato la Raggi. Lei mi ha detto un attimo che sento dall'Appendino, perché noi 5 Stelle le multe le togliamo come quando vogliamo. Quindi ce l'abbiamo anche nello statuto, ma ha detto tanto tolto la multa. Tra l'altro, se passa questo messaggio che il Movimento 5 Stelle toglie le multe, Grillo nei sondaggi vola al 90%. Te lo figuro. Ecco. No, straordinario Gene Gnocchi che chiacchierava con Crozza scherzando su quello che le conseguenze, diciamo, del piccolo scandalino di Torino. Allora, Rampini ha fatto gli straordinari, oltre al pezzo sulle stragi ha scritto uno su Trump, così diamo anche la lettura della vicenda Trump. La paura di Donald Trump è trasparente. Il giorno dopo i primi tre arresti e incriminazioni per lo scandalo del Russia Gate, il presidente twitta contro gli arrestati, cerca di stendere attorno a loro un cordone sanitario, scrive Rampini su Repubblica, pagina 6. Per ridimensionare la loro pericolosità e il danno che può nascere dalle loro rivelazioni. Bugiardo, definisce Giorgio Papadopoulos, anello di congiunzione fra la sua campagna elettorale e i russi, il quale nel frattempo sta collaborando con il grande inquisitore Robert Mueller, un volontario di basso livello, pochi lo conoscevano. Così si ostina a descriverlo Trump in un altro tweet, sorvolando sul fatto che lui stesso ne aveva tessuto le lodi. Questo per avere, come dire, il punto del caso Trump. E poi la Catalogna è una telenovela infinita. Vado sul Corriere della Sera e vi segnalo Nicastro, sì, perché è il titolo importante. Ieri Puigdemont, il governatore in fuga della Catalogna, passeggiava per Bruxelles e però non ha riscosso molto successo. Un albergo a 3 stelle e l'agente di Bruxelles che lo contesta. Davanti allo smarrimento dei miei connazionali e dal momento che le istituzioni del mio paese non sono in grado di funzionare, potrebbero essere le parole di Carles Puigdemont ieri a Bruxelles, ma sono invece quelle di un altro Carlo in esilio, il generale De Gaulle. Le pronuncia nel 40 dopo la rotta di Dunkerque e evoca questo precedente storico Nicastro per dire che invece c'è molta, lì c'è la dramma e qui c'è farsa. Ecco, questo è un po' il senso. La sua strategia è chiara, dice Nicastro, parlare in media stranieri per rendere internazionale la partita, ma gli è andata male. Non è un perseguitato politico. Prendo un altro articolo del Corriere della Sera. Per l'Europa il caso è chiuso, sono le parole del Presidente del Parlamento Tajani. Su Repubblica c'è una grande paginata di Concita De Gregorio Carles, il ribelle riluttante, porta la sfida catalana nel cuore dell'Europa, e la linea dura scelta da Madrid ha ridato fiato a un movimento secessionista fino a poco tempo fa minoritario. Né sciocco né incapace, vedete che la De Gregorio va un po' controcorrente rispetto alle interpretazioni delle ultime ore, il capo del governo spagnolo, Rajoy, aveva tutto l'interesse a infiammare la questione catalana, lo ha fatto. Interesse duplice: uno, incassare consenso elettorale in vista delle prossime politiche per arrivare alla maggioranza assoluta e liberarsi dello scomodo appoggio dei socialisti. Due, distogliere l'attenzione dalle incredibili vicende di corruzione che hanno riguardato e riguardano membri del suo esecutivo. Il governo Rajoy, lo dicono i fascicoli giudiziari aperti, è fra i più corrotti del dopo Franco. E D'Argenio su Repubblica, pagina 8, sull'altra pagina, isolato a Bruxelles, prepara Puigdemont la battaglia legale. Sono venuto qui per lavorare in sicurezza, ma il governo belga gli dice niente asilo, un precedente fa sperare la difesa del leader deposto, i consiglieri tornano a casa. Questo per chiudere il nostro viaggio, diciamo, nella Catalogna europea. Su Berlusconi, Repubblica, pagina 12, c'è lo Papa sulla sua reazione politica, molto tonica: è un'accusa ridicola, mi farà vincere. Però Liana Milella, segnalo questo pezzo, era ottimista da Sallusti, ma in questo caso no, il cavaliere è incandidabile, la decisione di Strasburgo arriverà solo dopo le elezioni. E sul Corriere, a pagina 15, c'è un altro dettaglio importante per ricostruire il quadro di cui parlavamo. L'inchiesta sulla mafia ha un effetto, lo racconta Virginia Piccolillo. Riavvicinare il centrodestra, un caso l'indagine a Firenze con l'ex premier Deluti sotto accusa, gli azzurri evocano la giustizia a orologeria e Salvini si arrabbia e dice: i magistrati smettano di fare politica. E il retroscena di Tommaso Labate dice addirittura che il PD ha dei dubbi, l'indagine può veramente favorirlo. Violante, pensate, violante, singolare, prendere per buone quelle frasi di Graviano. Abbiamo esaurito la pagina che riguarda Berlusconi. Adesso so che mi arriveranno 200 messaggi, sbagli, fai bene, sai male, ma io devo parlare del caso di Lauria, il cosiddetto impresentabile a 5 Stelle. C'è una battuta di LK, e è l'uomo che il candidato Cancelleri ha indicato come possibile assessore. E poi c'è un altro caso, un candidato dei 5 Stelle che ha un cugino boss, la denuncia arriva da Claudio Fava, e si dice non ha rifiutato di pagare il pizzo. Sto leggendo il pezzo di Emanuele Lauria, l'intercettazione sull'imprenditore Lidestri, simbolo Movimento 5 Stelle. C'è polemica quindi sugli impresentabili, molti sono nelle liste del centrodestra, alcuni nelle liste del centrosinistra, e questo è quello che è stato individuato nelle liste dei 5 Stelle. Poi ce la dicevo la battuta di LK che volevo leggervi: candidato assessore di 5 Stelle è un odiatore di professione, per una volta, dice l'altro personaggino, hanno scelto qualcuno con il criterio della competenza. Allora un attimo di pausa, ci fermiamo per le strade e torniamo a raccontare questo aspetto della politica di oggi. Ciao papà, sei obeso. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Mattino. Il treno di Renzi è l'unico treno al mondo dove senti fischiare all'arrivo e non alla partenza. Era un riferimento perfido di Crozza a tutte le contestazioni più o meno spontanee che hanno accolto il viaggio di Renzi in giro per l'Italia. Molti fischi, molti nemici, molto onore. Non è necessario sempre essere personaggi apprezzati da tutti per essere di valore. Allora, dicevo che ci sono due casi che riguardano due personaggi. Uno vi farà sorridere, credo, perché lo sponsor chiede a Insinna, ricordate tutta la vicenda del programma chiuso, cancellato, gli chiede i soldi indietro. È una cosa pazzesca. La Rocchetta chiede danni, vuole 2 milioni di euro da Insinna. Dopo i violenti fuori onda dello showman, quelli raccontati da Striscia la Notizia, Rocchetta punta ad arbitrato e risarcimento. Dacci i soldi. Il testimonial, infatti, con quei fuori onda avrebbe leso l'immagine del marchio dell'acqua che pubblicizzava. Vi leggo notizia, poi vi dico cosa ne penso. Le proteste dei consumatori su Facebook, il calo del fatturato, il danno d'immagine. A 6 mesi dal fuori onda diffuso da Striscia Notizia, in cui Flavio Insinna, testimonial dell'acqua bio blu Rocchetta, insultava i concorrenti del gioco Affari Tuoi e bestemmiava la Cogedi International, la SPA che commercializza e distribuisce il marchio, chiede danni allo showman, 2.189.000 euro, oltre alla restituzione dei 275.000 euro che Insinna percepì ogni anno per associare il suo volto a quello dell'acqua minerale. Gli avvocati Alfredo Morrone e Chiara Izzis hanno scelto la via dell'arbitrato più rapida rispetto alla causa civile, dopo che lo stesso Insinna a maggio scorso si è opposto, sto leggendo dal Messaggero a pagina 13, alla rescissione immediata del contratto. La società ha già nominato un proprio arbitro e adesso toccherà allo showman Flavio indicare un nome. La controversia dovrebbe risolversi in questo modo per evitare di finire in un'aula del tribunale. Signori, hai voluto sponsorizzarlo e te lo tieni con tutto quello che succede, perché altrimenti uno dovrebbe rispondere di cosa accadrà nella vita negli anni futuri, se qualcuno ti intercetterà, se qualcuno ti fa arrabbiare, lo insulti per strada. A me sembra una follia, però è così. Nella domanda di arbitrato, conclude Valentina Errante in questo bel pezzo sul Messaggero, viene considerato il danno causato dall'interruzione della diffusione delle pagine pubblicitarie e della messa in onda di tutti gli spot televisivi e radiofonici, quelli in cui il prodotto veniva associato all'immagine del conduttore televisivo e a cui si aggiungono i costi di realizzazione per tutto il materiale che l'azienda aveva preparato e che secondo loro è diventato inutilizzabile. Non solo, secondo un perito della società, ci sarebbe stato anche un calo del fatturato con la realizzazione di margini economici minori rispetto ai mesi precedenti. Cioè, si è venduta meno acqua per colpa di Insinna. Mamma mia. Andiamo un po' di notizie d'economia. Money. La crisi cambia il risparmio, le famiglie in fuga dal rischio. Governo e banche, sto leggendo la prima pagina del Sole 24 Ore, contro la stretta sugli NPL. Visco, la vigilanza è intensa. Si uniscono qua due notizie diverse, governo e banche contro gli automatismi e l'apertura di pagina 3, Davide Colombo e Laura Serafini, perché alla giornata del risparmio si è parlato delle linee guida della Banca Centrale Europea sui crediti. Padoan in Europa, confronto aspro. E poi c'è una foto, quella che vede Patuelli, il dirigente presidente dell'ABI, Padoan, Guzzetti e Visco. Sono i quattro dell'apocalisse dell'economia italiana, del credito italiano, il superministro e il governatore di Banca Italia che hanno fatto la loro importante comparsata apparizione in questa giornata. Tutti col cartellino, tutti impegnati, e il messaggio molto forte è quello di tenere insieme, di vedere insieme il ministro dell'economia e Visco. Ma perché ce lo spiega sul giornale un fondo, dopo il retroscena che vi avevo letto sul Corriere della Sera di ieri, continua a girare la voce di questa rottura dentro il governo proprio sul nodo delle norme bancarie. La rottura vede opposti da un lato Mariana Boschi, cosiddetto a Palazzo Chigi 2, nel famoso fondo che ha fatto scuola del Corriere della Sera, e il ministro dell'economia. Quindi ieri appaiono insieme, come racconta il Sole 24 Ore oggi, e danno un segnale. Visco difende l'autonomia della banca, la vigilanza non può sostituirsi agli amministratori. Vi dicevo, sul risparmio soffrono famiglie ed erario, e questa è pagina 2 del Sole, il tasso medio del rendimento scende allo 0,1, il gettito per lo Stato, pensate, in calo a 14,5 miliardi. E poi un altro pezzo molto interessante, Moira Longo, pagina 2, come viene investito il TFR dei lavoratori? Su 50 miliardi, solo 2,5 miliardi riguardano l'economia italiana. E Poletti sulla Stampa dice, pagina 8, è una segnalazione, la Fornero sbagliata va rivista. Boeri chiede le pensioni più care e noi andiamo a mitragliare. Avevamo protestato finalmente, ma ci voleva molto, ma non ci si poteva pensare prima. Si rivedono le norme sull'accompagnamento. Zunino, Repubblica, pagina 11, pensate che sia finita, pensate che i bambini possano andare a scuola tranquilli, ma mica tanto, perché la norma per evitare le conseguenze legali dice che le scuole devono valutare lo stato psicofisico di equilibrio mentale dei ragazzi prima di consentire a questa cosa, e si ritorna a bomba. Però intanto per ora si può fare. Repubblica, pagina 12, vi dicevo della incandidabilità, questo l'ho già letto. Ah, questa è molto bella, Il Tempo, pagina 7. Il fratello di De Magistris pochi mesi fa era diventato il leader di un movimento politico, Demma, che avrebbe dovuto portare in Italia la voce del messaggio politico del sindaco, adesso ha aperto una trattoria. Non so come interpretare questo segnale, però è sicuramente un grande cambio di vita. Si chiama Trattoria De Magistris, sembra quasi una presa in giro, ma forse è una svolta di vita. La Verità, pagina 23, pagina. Allora, avevano costruito una moschea in un garage, e vabbè, dici, questo può capitare. Poi hanno iniziato a prendere il garage a fianco, poi hanno iniziato ad abbattere i tramezzi, e qui è arrivata la polizia. Sì, perché la protesta dei residenti è cominciata quando è stato celebrato un funerale sulla rampa di accesso condominiale con tanto di bara. Ah, è finito, Il Tempo è finito, volevo mitragliare ancora ma mi devo fermare, e quindi ci fermiamo ancora un attimo per il GR e poi arriviamo con i cani e i gatti. Però dopo avervi detto questo, ha lasciato 1 milione al cane, miliardaria veneta, sul Tempo a pagina 14, 1 milione di euro. Ma se io sono il cane e Giannino il gatto, ma posso averlo io sto malloppo? Ciao. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No! Tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.